attimo ho capito che eri tu il mio angelo, la luce che mi sveglia la mattina. Il giorno che ti ho vista eri lì, eri all'angolo, seduta in quel caffè in fondo al tavolo, un posto libero per me. Gli anni passano, ricordi rimangono, se il mondo lo sapesse quanto ti ho cercata, fermerebbe il tempo per vederti un giorno in più. Amore, vieni con me, scappiamo a New York, se stiamo insieme di paura non ne avrò, non pensi che sia inutile rimanere a piangere, nascondere le lacrime. Amore, vieni con me, scappiamo a New York, se stiamo insieme di paura non ne avrò, ti porterò al centro del mondo, andata senza ritorno, e ora vieni con me. Cogli l'attimo come un bel film alla TV, sento un brivido dentro il cuore che scende giù, siamo in bilico e non è stupido. Se il cielo lo sapesse quanto ti ho amata, forse capirebbe che l'unica sei tu. Amore, vieni con me, scappiamo a New York, se stiamo insieme di paura non ne avrò, non pensi che sia inutile rimanere a piangere, nascondere le lacrime. Amore, vieni con me, scappiamo a New York, se stiamo insieme di paura non ne avrò, ti porterò al centro del mondo, andata senza ritorno, e ora vieni con me. Il mio angelo, la luce che mi sveglia la mattina, il giorno che ti ho vista eri lì.